Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa della stampa internazionale, non dico solo quotidiani, soprattutto oggi, soprattutto al sabato, perché vorrei iniziare anche questa settimana dall'Economist, che ha una copertina tutta rossa praticamente, oltre al logo della testata che è già rosso, ma in questo caso un rosso leggermente più chiaro, e il titolo è Trade Without Trust, cioè fare affari senza avere fiducia gli uni negli altri, così dovremmo tradurre in italiano. E il sommario è come l'Occidente dovrebbe appunto relazionarsi dal punto di vista commerciale con la Cina. Tutto su sfondo rosso, vi dicevo, perché come sappiamo la bandiera della Cina è questa bandiera rossa con le stelle gialle, e qui c'è una stella più grande all'interno della quale c'è un occhio che è su sfondo verde, quindi sembrerebbe ricordare magari gli occhi di uno dei presidenti che sono sulle banconote dei dollari, e poi ci sono le stelle gialle. È interessantissimo questo approfondimento perché, come sapete, dopo la tregua un po' da Covid, per modo di dire, Donald Trump, prendendo anche come spunto, peraltro con anche tante ragioni, quello che sta succedendo a Hong Kong, ha di nuovo minacciato la Cina di molte misure che riguardano i dazi e le tariffe, non solo. Lo status di partner privilegiato a Hong Kong potrebbe essere ritirato, non solo. Donald Trump, se dovesse essere rieletto, renderà permanente l'uscita dall'OMS, e anche lì sappiamo che sotto questa decisione di uscire dall'OMS e di non essere più il primo contributore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è il tema di come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha permesso alla Cina di sottovalutare il Covid, e poi ancora la decisione poi ritirata di impedire agli studenti che non sono americani e che in questo caso sono soprattutto cinesi di studiare, di avere un visto da studenti negli Stati Uniti se le università che avrebbero dovuto frequentare avessero deciso di fare solo didattica via computer. Poi questo divieto è stato ritirato, però è una delle tante ragioni alla base di queste tensioni. Dall'Economist però vi segnalo anche un approfondimento sui colossali costi, così vanno definiti, della chiusura delle scuole. Si tratta naturalmente dei costi diciamo psicologici della mancata istruzione per così tanti mesi, e poi automaticamente, siccome per sempre le scuole non possono stare chiuse, il costo della riapertura che verrà dopo le chiusure. Ma vi segnalo anche, perché ci ho fatto caso settimana scorsa e non è necessario conoscere alla perfezione l'inglese per godersi questa pagina, la pagina 3 o la pagina 5 di ogni numero dell'Economist si chiama The World This Week, e sono piccoli flash di massimo 10 righe su quello che è successo nel mondo questa settimana, ed è veramente incredibile la quantità di notizie anche importanti che ci perdiamo perché siamo focalizzati proprio solo sul nostro ombelico. Per esempio, l'Agenzia Spaziale Brasiliana ha confermato che tra gennaio e giugno c'è stato un aumento del 25% della disboscazione dell'Amazzonia. Poi ci sono le notizie che vengono dalla Libia, le notizie che vengono da Singapore, da Seoul, il fatto che nelle Filippine non sia stata rinnovata la concessione al più grande network televisivo perché accusato di aver parlato male del presidente Rodrigo Duterte, e così via. Quindi davvero godetevi sempre l'Economist, ma davvero anche questa pagina con le notizie in pillole. Tornando in Europa, la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha dedicato molti articoli, cito in particolare uno, sulla vicenda della fintech Wirecard, che sapete si è scoperto perché la società di certificazione dei bilanci, che avrebbe dovuto appunto certificare il bilancio, si è rifiutata perché, intuendo che c'era qualcosa che non andava, è stato un po', come si dice in inglese, il whistleblower, cioè colui che suona, che fischia e che quindi lancia l'allarme. Da lì è scattato un'indagine, mancano nel bilancio miliardi di euro, il fondatore ed ex amministratore delegato è stato arrestato, poi rilasciato con una cauzione di 9 milioni di euro. Adesso si indaga, però la Frankfurter Allgemeine Zeitung in particolare ha detto che esiste un documento interno al Ministero delle Finanze che spiega che il ministro Olaf Scholz era stato messo al corrente delle accuse di manipolazione del mercato già dal febbraio 2019. Sono sotto accusa non soltanto il Ministero delle Finanze, ma anche gli organi di controllo, l'equivalente della nostra Consob, perché quando un'azienda così grande, così importante, riesce a farla franca per tanto tempo con manipolazioni di questo genere, si deve ancora dimostrare dove sono finiti i soldi che mancano dal bilancio, è chiaro che mancano dei controlli e quindi bisogna trovare le responsabilità. Vi segnalo dalla Gazzetta Wyborcza, che è uno dei principali quotidiani polacchi, una vignetta, ed è, sapete, i colori della Polonia sono il bianco e il rosso, c'è una palla divisa in due e la domanda che c'è sopra è: la Polonia è tagliata in due? E le risposte possibili sono sì, no. Il riferimento naturalmente è al fatto che il presidente uscente, ne abbiamo parlato anche Effetto Mondo martedì, il presidente uscente della Polonia, che è il, per semplificazione possiamo definirlo, populista Andrzej Duda, ha vinto di pochissimo il secondo turno delle presidenziali che si sono svolte domenica scorsa, dopo una campagna sul territorio che è stata molto molto intensa, in particolare tra il primo e il secondo turno. Duda è al potere dal 2015 con il suo partito che appunto populista, chiamiamolo ultraconservatore, nazionalista, diritto e giustizia, e ha ottenuto il 51,03% dei voti, e invece il suo avversario, attuale sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, ha ottenuto il 48,97%, quindi appunto un paese in questo momento diviso in due. Una lunga analisi della situazione demografica attuale dell'Europa, ma anche in prospettiva, la fa l'osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, citato da Vox Europe, e il titolo di questa analisi è: sempre meno europei, sempre più anziani. Uno studio infatti del Parlamento europeo ha delineato il futuro demografico dell'Unione, di cui facciamo parte naturalmente, andando fino al 2080. E se si manterranno i trend attuali, scenderemo dai 513 milioni di abitanti di oggi a 504, e non si fermerà l'emorragia di popolazione dalle campagne. È davvero un articolo interessante. Sappiamo che in Italia, tra l'altro, questa situazione, lo ha certificato l'Istat proprio all'inizio di questa settimana, è particolarmente grave, perché da noi non soltanto ormai ci sono più morti che nascite, ma molte persone continuano a emigrare e meno persone vengono nel nostro paese, e quindi tutti questi fattori combinati insieme appunto rendono l'Italia in una situazione demografica particolarmente grave nel già grave panorama dell'Unione Europea. Le Monde, a proposito di fase di nuova normalità, ha dedicato un articolo a Disneyland Parigi. Disneyland, il parco di divertimento originale, quello, il primo, è quello di Orlando in Florida, già riaperto, nonostante i problemi che ha la Florida di aumento di giorno in giorno quasi esponenziale dei contagi, e lo ha fatto in parte e scaglionando, andrà poi a pieno regime settimana prossima, quello di Parigi. Naturalmente potete immaginare che il lockdown, la chiusura delle attività commerciali, dei teatri, dei cinema e dei parchi di divertimento come Disneyland per così tanti mesi ha messo in crisi dal punto di vista economico appunto la società E tra l'altro, siccome comunque si riapre, sì, ma con le misure di sicurezza, il distanziamento fisico, eccetera, in realtà rispetto alle 80.000 persone che possono accedere giornalmente a Disneyland, si calcola che ne potranno accedere circa 24.000. E a questo punto, tra l'altro, naturalmente, come per moltissime altre attività, si deve puntare sui clienti francesi più che sui turisti, e anche questo è un problema, perché da anni ormai quella era un'attrazione soprattutto per chi andava magari a Parigi, e Parigi è una delle città più visitate al mondo in assoluto, quindi chi andava a Parigi poi magari faceva anche una visita a Disneyland. Vedremo, insomma, il destino di questo particolare parco divertimenti, ma che naturalmente sappiamo anche in Italia si è parlato molto delle difficoltà di tutti questi, poi essendo in estate, di tutti quei parchi che in estate hanno i giochi d'acqua, e che naturalmente in questo periodo a loro volta possono si riaprire, hanno potuto riaprire, parlo dell'Italia, ma con ingressi contingentati. L'ultimissima segnalazione che riesco a farvi, credo, anzi figurati, forse anche di avere un po' sforato, però ve la devo fare, perché è un articolo scritto da Scientific Reports che dimostra che in Asia il legame affettivo tra gli esseri umani e i gatti si è sviluppato più di 1000 anni fa, molto prima di quanto finora ipotizzato, e non potevo non darvi questa notizia. Era l'ultima però per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Per le aziende e professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.